Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Cina, parliamo di questo colosso economico, parliamo delle possibilità di fare commercio con la Cina, di sfruttare le grandi potenzialità di questo paese sotto un profilo nuovo, sotto il profilo anche delle nuove tecnologie. E lo facciamo con Marco Gervasi. Buonasera Gervasi. Buonasera. Marco Gervasi è avvocato, consulente strategico, imprenditore, assiste fondi di investimento e ha scritto il libro East Commerce, che ovviamente richiama l'e-commerce, ma con l'East che si riferisce alla Cina, come fare affari con il più grande e-commerce del mondo, un libro edito da Eupli e a cui introduzione è scritta da Luca De Biase, collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi questa sera. Buonasera De Biase. Buonasera. Allora, io comincerei un attimo da De Biase, ma perché è importante questo libro e perché è importante l'e-commerce tra l'Italia e la Cina? È importantissimo perché noi, a parte la dimensione dell'economia con la quale stiamo riferendoci, è importantissimo questo libro perché ci fa vedere che l'idea di e-commerce e la pratica di e-commerce della Cina non è sempre necessariamente quella che ci aspettiamo. In realtà Gervasi, che va dentro nelle dinamiche più precise di quel mondo, ci fa vedere che il modo con il quale i cinesi usano la rete per fare e-commerce è tutto particolare, è molto orientato a socializzare, molto meno orientato a vendere a catalogo. C'è anche la classica modalità dell'e-commerce a catalogo, diciamo così, ma in realtà il modo più simpatico, più importante e più vero per loro è quello di incontrarsi in un sito di e-commerce e cominciare una trattativa. Ecco, allora chiediamo proprio a Gervasi, che ha scritto questo libro, questa guida all'e-commerce, se è vero, come sarà sicuramente vero quello che dice Luca De Biasi, ma l'impressione vista un po' dall'esterno è quella che i cinesi volessero seguire un po' le logiche occidentali. Se pensiamo ad Alibaba, questa grande società che affianca Amazon come grande protagonista dell'e-commerce mondiale, è stata in fondo quotata a New York. Allora, Gervasi, quali sono le vere differenze e quali sono le vere potenzialità dell'e-commerce in Cina? Ma le vere differenze dell'e-commerce cinese rispetto a quello americano sono innanzitutto che in Cina viene privilegiato il modello marketplace, ovvero la piattaforma tecnologica che è Alibaba, che non è un sito di e-commerce, a differenza di Amazon, permette a venditori e compratori di entrare in contatto tra i loro, quindi Alibaba è un facilitatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'e-commerce cinese è molto importante il rapporto tra il venditore e il compratore e non c'è un intermediario, ma c'è semplicemente un rapporto in cui quando un prodotto viene venduto il compratore immediatamente entra in contatto con il venditore e inizia a dialogare per scoprire quali sono le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le funzionalità. Questo deriva dal fatto che gli acquisti in Cina non sono così diffusi e non sono così maturi come lo sono nel mondo occidentale, per cui per il compratore cinese è ancora molto importante cercare di capire che cosa sta comprando e a che cosa serve quello che sta comprando. Ecco, diciamo quindi che l'e-commerce cinese è nato per permettere a due parti di entrare in contatto tra loro, piuttosto che il modello Amazon, che è semplicemente una piattaforma che compra e rivende e quindi non mette in contatto il venditore, ma taglia il rapporto tra i due. Questa è la profonda differenza. Che cosa vuol dire fare business in Cina usando questo metodo? Vuol dire che non esiste la possibilità di mettere un prodotto a catalogo e aspettarsi che il compratore cinese lo compri così come lo vede, ma il compratore cinese comunque vorrà dialogare e si aspetta un dialogo anche molto veloce, diciamo circa 45 secondi, quindi quando il compratore cinese manda una domanda, pone una domanda al venditore, in questo caso potrebbe essere una città italiana, si aspetta una risposta entro 45 secondi e questo sulla sua stessa sul suo stesso orario, quindi senza tener conto della differenza di orario. Se non si aspetta una risposta entro 45 secondi, salta direttamente a un altro compratore con un prodotto simile. Questo vuol dire che quindi la fotografia, quindi il catalogo, non è così importante, più importante il rapporto one-to-one che viene portato letteralmente online. Ecco, ma questo complica molto le cose dal punto di vista pratico per fare affari con la Cina, dottor Gervasi. Certo. Guardi, il fatto è questo, che sicuramente l'e-commerce è un ottimo canale e permette una diffusione molto più forte e molto più economica rispetto a come era una volta tradizionalmente di aprire lo shopping mall, di aprire un negozio all'interno dello shopping mall. Però c'è comunque un punto molto importante che va sottolineato: il compratore cinese è un compratore estremamente sofisticato, estremamente esigente e che salta facilmente da un prodotto all'altro se lo ritiene intercambiabile, per cui il rapporto di fiducia con il venditore diventa fondamentale nell'evitare questo salto. Questo che cosa vuol dire? Che non ci si può aspettare di mettere un prodotto su una piattaforma come Alibaba dall'Italia senza avere un customer service che segua il consumatore cinese in base alle esigenze del consumatore cinese. Quindi semplicemente piazzare qualcosa online non funziona in Cina, e questa è una cosa che è ancora difficile da capire. Ecco, però la Cina resta un'economia molto forte, un'economia che cresce, un'economia che ha bisogno comunque anche degli apporti da parte dei paesi occidentali. Quindi mi rivolgo brevemente a Luca De Biasi. Questi rapporti si dimostrano positivi, si dimostrano possibili anche alla luce di queste novità, di queste particolarità dell'e-commerce? Beh, da un lato teniamo conto del fatto che, sebbene stia rallentando, la Cina è cresciuta così tanto che aggiunge al PIL mondiale in assoluto di più adesso di quando nel 2007 è cresciuta del 14%. Quindi per noi è un mercato straordinariamente importante e che cresce. Ora, Gervasi ci insegna che non andiamo là con i nostri metodi, andiamo là a parlare con loro, con la loro mentalità, e questo è fondamentale per poter aumentare le vendite in Cina. Ecco, Gervasi, su questo fronte, allora, quali consigli può dare a chi vuole intraprendere un discorso commerciale con la Cina, oltre ovviamente a quello di comprare il suo libro, che, lo ricordo, si intitola East Commerce, come fare affari con i più grandi e-commerce del mondo? Sicuramente il primo consiglio che io do, ma è la stessa cosa che facevo quando il business in Cina funzionava ancora offline, è quello che la Cina richiede un commitment, ovvero non è un mercato dove i prodotti si vendono da soli, a meno che non si abbia un marchio, ma anche se si ha un marchio importante comunque bisogna essere presenti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui si decide di vendere in Cina è necessario un commitment. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire avere almeno una persona all'interno della propria azienda che si occupi esclusivamente di questo mercato. Questo è sicuramente una richiesta molto alta, perché persone che si occupano di digitale nel mercato americano o anglosassone possono occuparsi di entrambi i mercati contemporaneamente, mentre la Cina, essendo un mercato atipico, richiede che una persona si occupi esclusivamente di questo. Perciò coloro che, i marchi che ritengono che il paese sia strategico per loro, è necessario che sappiano che questo paese richiede uno sforzo, e lo sforzo è quello di avere una persona che si occupi di dialogare con il consumatore cinese. C'è anche un'altra cosa, bisogna ricordarsi che c'è una differenza di orario, 6 ore d'estate, 7 ore d'inverno, e quindi bisogna anche utilizzare dei service provider presenti in Cina che permettono di mantenere il rapporto con il consumatore continuo, quindi con questo flusso di informazioni, anche quando in Italia invece le attività sono ferme. L'Europa ha degli spazi di manovra all'interno del mercato cinese, anche di fronte a una concorrenza americana che sicuramente è molto forte come presenza sul mercato cinese? Guardi, io ritengo una cosa molto importante, che l'Italia ha ancora una cosa che in Cina non c'è, cioè il prodotto. Questa è una cosa fondamentale, perché l'Italia non solo ha prodotti che sono stati inventati, ma continua a generare nuovi prodotti, quindi è una fucina di idee e di prodotti che comunque hanno un appeal internazionale. Questa è una caratteristica del nostro paese che penso che non finirà mai, ed è la grande nostra forza. Per cui ritengo che l'Italia sia assolutamente in grado di poter imporsi sul mercato cinese con i propri prodotti, perché sono qualitativamente molto alti e sono amati dal pubblico cinese. Si tratta di capire il metodo che i cinesi richiedono per poter vendere i nostri prodotti nel loro paese, ma non ho nessun dubbio che i prodotti hanno un mercato. Luca De Biasi. Sì, è così. Poi, tra l'altro, insomma, la concorrenza delle piattaforme in Cina che non siano cinesi è molto debole. In realtà bisogna andare in Cina e ragionare come cinesi. Gli italiani sono amati da quelle parti, possono crescere da quelle parti, ma devono imparare a pensare come loro. E questo non è molto facile. Pensare come loro cosa può voler dire dal profilo appunto del marketing, della presenza commerciale, della presenza anche come capacità di immagine a livello cinese, dottor Gervasi? Guardi, pensare come loro vuol dire innanzitutto non pensare come pensiamo quando andiamo a vendere un prodotto nell'Europa continentale o negli Stati Uniti. Già questo è un passaggio in avanti, ovvero se si dimentica un certo tipo di automatismi che si hanno nelle campagne di marketing nei mercati occidentali e si impara quali sono le campagne richieste invece dai mercati cinesi, già questo è un passaggio in avanti. Qual è il fondamento di una buona campagna con un consumatore cinese? Innanzitutto raccontare una storia. La storia del proprio prodotto, che per noi italiani a volte può essere scontata perché tutti la sappiamo, ma in realtà è una storia talmente bella e talmente diversa dalle storie che sono in Cina che vale la pena raccontarle. Per cui per ogni azienda, dal vino al cibo, all'automobile, a tutto il resto, è importante che il marchio sia capace di raccontare la propria storia al consumatore cinese che ne rimane affascinato. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è molto importante che il marchio stabilisca un rapporto diretto con il consumatore cinese. Ad esempio c'è un social network cinese molto importante che adesso è presente anche in Italia, che si chiama WeChat, che è una sorta di WhatsApp combinato insieme a Facebook, che permette al brand di dialogare direttamente col consumatore one to one e di far sì che si instauri un rapporto. Ecco, io ritengo che sia molto importante per un marchio italiano che vuole vendere in Cina creare questo rapporto e utilizzare questo social network, che in Cina è utilizzato da più di 600 milioni di utenti. Quindi non solo moda, ma anche prodotti di uso corrente, anche prodotti di uso industriale, anche prodotti appunto che possono essere utili quotidianamente alle famiglie, ma anche alle imprese, come tutto quello che può appunto entrare appunto nella catena della produzione industriale. In questo senso le prospettive sono molto ampie. Nella sua esperienza diretta, dottor Gervasi, su quali fronti l'Italia può avere maggiori possibilità di penetrazione commerciale? Guardi, sicuramente i prodotti più importanti sono i prodotti per cui l'Italia è famosa in tutto il mondo, quindi i prodotti di moda sono ancora molto richiesti, anche se il lusso inizia a calare. Louis Vuitton sta chiudendo alcuni negozi in Cina perché il turismo cinese ha fatto sì che i cinesi vengano ad acquistare direttamente in Francia o in Italia i prodotti di lusso. Per cui ricordiamoci che il lusso, come era una volta, adesso in Cina sta calando, ma il prodotto di fascia medio-alta con un marchio che abbia una tradizione e che voglia dire qualità è molto apprezzato dal consumatore cinese, che inizia a richiedere un prodotto che lo differenzi dalla massa. E quando mi riferisco alla massa mi riferisco quindi ai prodotti di lusso che negli anni hanno venduto addirittura eccessivamente e non hanno più permesso al consumatore cinese di differenziarsi, ma alla fine tutti iniziano ad avere la stessa borsetta e lo stesso paio di scarpe. Ecco, noi in Italia abbiamo ancora molti marchi famosi ma che non sono a livello di top lusso, ma che hanno una forte tradizione e forte qualità, che ritengo abbiano molto successo in Cina se sono in grado di raccontare la loro storia. Ovviamente ci sono anche i prodotti alimentari che sono molto richiesti, ad esempio in Cina il latte è molto richiesto, come sono richiesti i vini, come sono richiesti tutta una serie di cibi che il consumatore cinese è curioso e vuole assaggiare, vuole provare, come ad esempio anche l'olio d'oliva o l'aceto balsamico. I cinesi amano intingere il parmigiano all'interno nell'aceto balsamico, che è una cosa che gli abbiamo insegnato noi italiani. Quindi diciamo che di spazio ce n'è per diversi tipi di prodotti. Di nuovo, ripeto, è molto importante fare questo sforzo di raccontare la tradizione e la storia del prodotto. E questo, come italiani, dovremmo saperlo fare, questa è una buona notizia, perché gli ingredienti ci sono, le tecnologie anche, la capacità di iniziativa, gli italiani l'hanno sempre dimostrata e dovrebbero continuare a dimostrarla. Grazie Marco Gervasi di essere stato con noi questa sera, grazie anche a Luca De Biase che ha scritto la prefazione di questo libro, East Commerce, come fare affari con il più grande e-commerce del mondo, edito da Oepli, costa 19,90 euro, c'è anche ovviamente una versione ebook a 14,90 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Carmelo Lauricelli in regia e Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.